non sono riuscito mai a telefonare per fare i complimenti della vostra trasmissione, in particolare per la voce, per il modo di parlare, per il modo di porsi del Deborah Rosciani. E dico sempre, io peccato che sono sposato. Due di denari. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Cara Deborah, Rock the Cashback. Eccoci. Rock the Cashback. Non era proprio così, secondo me, che cantavano i Clash, vero? Anzi, i Cash, no, a questo punto. Perché... Allora, è un... Perché ancora gli intoppi vanno avanti, devo dire che riguardano peraltro in prima persona anche noi, perché noi siamo qua, come tutti i bravi giornalisti, facciamo delle prove sul campo, naturalmente, per vedere se i servizi funzionano, e anche noi siamo un po' lì sospesi. Eh sì, diciamo che più che un cashback sembra un crashback per alcuni di noi, anche a giudicare dai messaggi che continuate a inviarci, grazie. Il numero 349-238-6666. Diteci se ci state riuscendo a caricare i metodi di pagamento sul cash, sul cashback, sulla app Io, che è la app Io, da cui poi si attiva tutto quanto il meccanismo con la restituzione per questa prima parte, che è quella sperimentale. Io col mio bancomat, esatto, non ce l'ho fatta, Deborah. Che devo fare? Allora, io ho utilizzato una via parallela con un'altra applicazione, e quindi il codice del conto corrente l'IBAN mi risulta caricato, risulta che l'operazione sarebbe formalmente partita, ma se apro l'applicazione Io mi dà questa scritta e mi dice che la parte dei sistemi di pagamento è in manutenzione, per cui io non posso avere una visualizzazione completa dei metodi di pagamento che ho inserito, per cui in realtà posso dire di non aver completato tutta l'istruttoria neanche io. Ma d'altronde ieri, Mauro, hanno provato a farlo qualcosa come 5 milioni di italiani, c'è stato un record di 8.000 tentativi di accesso all'applicazione di Io al secondo, e quindi molti hanno detto, vabbè, con questi numeri era naturale che andasse un po' tutto in difficoltà, in affanno. Io quello che dico però è che questa operazione forse si sarebbe potuta accompagnare con un pochino più di intelligenza, e non con lo stop and go, partiamo il 1° dicembre, il 2 dicembre, l'8 dicembre, facciamo partire tutto a gennaio, facciamo partire la lotteria degli scontrini a febbraio. Insomma, tutto un pochino anche di pasticcio di date, secondo me, che non hanno aiutato, quando invece queste operazioni vanno fatte con un pochino di calma, anche perché inseriamo i codici, appunto, delle nostre carte di credito e della nostra moneta elettronica, quindi è chiaro che dobbiamo fare anche attenzione, perché poi si inseriscono i dati sbagliati, si pasticcia, si intoppa il tutto doppiamente, bisogna ricominciare, e poi, quindi andiamo, certo, in confusione. E poi magari data breach, breach. Grazie Pietro la corte, subito pronto con i suoi tasti a mandarci la pronuncia corretta. In realtà ci hanno poi scritto che è sbagliato dire data breach, come si dice, Pietro? Data breach. Ecco, grazie, così come ha detto il signore. Data breach. Così data è giusto. Breach. Allora, quella roba lì però non serve per questa cosa del cashback, perché in realtà qui si tratta di un problema di accesso eccessivo, di richiesta eccessiva, tanto che PagoPA ha diffuso ieri un comunicato e ha detto che sì, hanno fatto il possibile, insomma, hanno intensificato le attività di potenziamento, di test, delle componenti tecnologiche. Hanno poi spiegato questo, unito all'interesse riscosso dall'iniziativa, ha comportato, scrivono loro, momentanei rallentamenti nell'app Io, che abbiamo progressivamente risolto per garantire un'esperienza soddisfacente al cittadino, che è al cuore della nostra mission aziendale. Noi non abbiamo dubbi, naturalmente, sulla buona fede di PagoPA. Ci permettiamo di dire, come già ricordato da Deborah, forse questo record di afflusso era prevedibile. Qualcuno poi anche segnala al nostro numero di messaggi, SMS e WhatsApp, attenzione, perché poi come la mettiamo con le persone meno così portate all'uso del digitale, ad esempio le persone anziane o che magari non sono così pratiche nell'usare uno smartphone, di fatto resterebbero escluse da questa iniziativa. Esatto. Aggiungo, Mauro, che se hai notato dalle mail che ci sono arrivate dagli ascoltatori, che per la verità poi la rosa e le caratteristiche delle problematiche riscontrate sono diverse. Un ascoltatore ci segnala addirittura che ha provato a fare l'accreditamento e sulla applicazione appunto io gli spiegano che gli arriva una mail dalla quale lui deve a sua volta rispondere per confermare tutta l'operazione, ma mi risulta che questo sia l'unico caso in Italia, perché a noi nessuna mail appunto è arrivata necessaria a confermare poi l'avvio dell'operazione sul sito o sull'applicazione appunto io, e quindi insomma problematiche di vario genere con le quali probabilmente dovremo continuare a confrontarci anche nei prossimi giorni. L'ultima notizia che voglio dare riguarda invece Poste Italiane, Mauro, perché ha fatto sapere di che sta dando tutto il supporto necessario al programma Italia Cashless. Poste Italiane distribuisce 29 milioni di carte, 20 milioni di app, 7 milioni di wallet di pagamento digitale, quindi è un colosso dell'intermediazione finanziaria molto rilevante, come ben sappiamo, e tutti i titolari delle carte di Poste Italiane possono eseguire la registrazione necessaria per la partecipazione al programma direttamente sull'applicativo Poste Pay e Banco Posta, in alternativa alla procedura di registrazione tramite appunto SPID sull'applicazione IO. E quindi c'è questa ulteriore informazione che ci interessava dare agli ascoltatori nel caso in cui magari non ci avessero pensato, hanno un conto Poste Pay e hanno insistito con l'applicazione IO della pubblica amministrazione. Sappiate che potete, come dire, un po' bypassare eventualmente il canale primo e utilizzando il canale appunto delle Poste. L'ultima cosa che vogliamo raccontarvi è invece anche una iniziativa che riguarda il mondo degli esercenti, Mauro, perché qua il nostro sportello reclami è sempre aperto. Vogliamo ascoltare che cosa ci hanno detto ieri. Dillo a due di denari. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, vi ascolto da Padova. Io ho un pubblico esercizio, volevo solo esprimere la mia opinione, le nostre intenzioni circa la buffonata dell'iniziativa cashback del governo. Innanzitutto prendiamo spunto da altri paesi, in primis i paesi anglosassoni, dove il cashback esiste da decenni. Non è una misura organizzata dal governo, ma è una misura, un'operazione automatica degli istituti di credito, quindi molto più fluida. Spendi 100, la banca ti accredita il 10%, l'8%, quello che deve essere, però è molto più fluido. Come al solito siamo riusciti con la burocrazia italiana a complicare anche questo. Seconda cosa, nel mio locale prossimamente attueremo questo, l'anti-cashback, cioè qualsiasi cliente che paga in contanti, sullo scontrino gli verrà applicato uno sconto del 10 o 15%. Quindi, proprio per non per andare contro questa iniziativa e anche per non pagare le commissioni bancarie, che sarebbe ora le eliminassero, abbiamo deciso di fare così. Quindi scontiamo al cliente che paga in contanti sullo scontrino emesso, più effettuiamo questo sconto più di quello che il cliente avrebbe diritto col cashback. Vi ringrazio, buon lavoro e complimenti ancora per la trasmissione. Allora, qui è partito anche un po' di concorrenza, verrebbe da dire. Non sarà contento di questa iniziativa, probabilmente, l'amministratore delegato di Bancomat, che abbiamo ospitato, anche perché Bancomat sta preparando un'iniziativa che debutterà dal 1 gennaio 2021, che dovrebbe far piacere anche al nostro amico, a questo esercente che ha lasciato il messaggio. Allora, do il benvenuto ad Alessandro Zollo, benvenuto a Due di Denari, dottore. Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, avrà sentito, insomma, c'è una certa insofferenza che porta anche a immaginare percorsi alternativi, quindi batto lo scontrino però accetto solo pagamenti in contanti. Verrebbe da dire, vabbè, purché sia battuto lo scontrino, però in effetti in questo modo diciamo che il tentativo di ridurre l'utilizzo del contante viene vanificato. Voi peraltro avete un'iniziativa che partirà da gennaio e andrà avanti fino al 31 dicembre del 2023 per ridurre, per così dire, l'impatto e stimolare l'utilizzo del bancomat anche sulle microtransazioni, cioè su quelle fino a 5 euro. Ce la spiega meglio questa iniziativa? Ma allora, insomma, intanto ho sentito, ci sono tanti spunti, no, dalla premessa che avete fatto. sulla stretta risposta alla sua domanda, noi proprio per come dire, rafforzare questo piano cashless del governo, essendo il circuito più popolare, più diffuso, con 1.600.000 operazioni pago Bancomat, abbiamo deciso con le banche, nostre azioniste, di azzerare le commissioni di circuito per le transazioni fino a 5 euro. Lo faremo per la durata del periodo del cashback, poi valuteremo se farlo e se estenderlo o meno, ma per tutti questi due anni, per quelle transazioni che sono quelle, diciamo, a maggior diffusione, a maggior presenza di contante, che sono quelle che però determinano poi il cambiamento delle abitudini, perché fanno riferimento al pagamento del giornale, del caffè, del latte, del pane, che normalmente vengono fatte in contante. Quindi questa è una manovra che tende a dare forza ancora di più a questo piano cashless. Se vuole le faccio subito un commento rispetto, no, ai costi e a quello che diceva il vostro, che diceva l'esercente, sì, che lasciava, sì, allora, che intanto, peraltro raccoglieva, adesso noi abbiamo raccolto con lui diverse serie di lamentele, che dicono io lo farei ma poi le banche mi chiedono troppo di commissioni, scusi, l'ho interrotta, allora, ma giusto per precisare questo, prego. Certo, allora intanto voglio dire è un servizio e come tutti i servizi vanno remunerati, non si capisce perché dovremmo azzerare, le banche dovrebbero azzerare le commissioni su un'attività dove ci sono una serie di costi. Ma al di là di questo, voglio dire, proprio il Sole 24 Ore ha pubblicato uno studio che dice che la nostra media di costo delle commissioni in Europa è sotto alla media europea, quindi la media europea è 1,2 e la media italiana è 1,1, e quando lei si sposta in paesi dove invece le transazioni non stanno come noi molto nelle posizioni di retroguardia, perché noi facciamo operazioni pro capite per 111, in Finlandia per 532, nei Paesi Bassi 505, scusi, non le sto a elencare tutti i numeri. Sono valori medi in euro, mi immagino. Sono valori medi in euro questi. Sono che... questi sono valori di operazioni. Cioè per numero di operazioni. Esatto. Sì. In paesi come l'Olanda, per esempio, che hanno 505 operazioni, hanno un prezzo medio delle commissioni di 1,6. Questo dimostra esattamente che non è un problema di prezzo, perché le nostre commissioni non sono più care, quelle delle banche, agli esercenti, di quello che è la media europea, anzi in alcuni casi addirittura molto più bassi in paesi dove è sviluppato. Mi domando perché non dovrei pagare l'1,1 di commissione, spaventarmi l'1,1 e poi magari applicare il 20% sul cash, no? Quindi insomma ci si dovrebbe fare questa domanda più che altro. Vorrei riunire il tema della giornata con cui abbiamo aperto, cioè il cashback alla questione del bancomat, alle questioni del bancomat, perché molti ascoltatori e io stesso le devo dire abbiamo difficoltà a inserire il bancomat proprio. Non parliamo delle carte di credito, ma il bancomat nella app Io, che poi è quella che bisogna usare per il cashback, ma tra l'altro si può usare anche per pagare i vari tributi, ad esempio, di molte amministrazioni locali, perché poi sembra che serva solo per il cashback, ma serve anche per queste cose qui. Vi risultano questi problemi? Li state affrontando? Vi hanno chiesto un aiuto? Allora, mi lasci dire questa cosa. Qui stiamo parlando di un'iniziativa molto complessa, molto complicata, con migliaia e migliaia di richieste al minuto. Ci sono stati, io ho i dati ieri pomeriggio, già 1 milione di registrati, quindi volevo un po' tranquillizzare che esistono delle persone che sono riuscite a fare questa cosa, quindi voglio dire è un'operazione complessa che è nelle mani non nostre come infrastrutture, nelle mani di PagoPA. Peraltro anche sui giornali oggi è uscito la difficoltà del PagoBank. È evidente che il PagoBank, essendo la carta più diffusa, viene chiamata, no, come lei l'ha chiamata adesso, carta Bancomat, subito come principale, no, strumento da caricare. Esistono questi problemi, io credo che siano in parte legati alla straordinarietà dell'iniziativa, spero, credo, sono sicuro che nelle prossime ore questo verrà sistemato, so che i tecnici stanno lavorando a questo, noi stiamo dando tutto il supporto che possiamo dare a una cosa del genere, ma che non è gestita da noi dal punto di vista tecnico. Certo, Deborah. Volevo leggere, Mauro, sì, salutiamo il dottor Zollo perché dobbiamo andare avanti con la trasmissione. Volevo anche leggere chi sta alla mail di un ascoltatore che sta guardando però tutto questo processo di questi giorni, come dire, come positivamente, e lo vede inevitabilmente, ma devo dire che sono d'accordo con lui e lo siamo anche noi, come bicchiere mezzo pieno. Sento solo lamentele, ci scrive Giorgio, invece mi complimento perché questi due provvedimenti, cashback e anche la lotteria degli scontrini che partirà prossimamente, fanno volare i pagamenti e l'identità digitali. Anni di chiacchiere, ma finalmente qualcosa di concreto. Si poteva fare meglio, certo, ma tranquilli, vedrete gli effetti, e noi condividiamo assolutamente questa impostazione. Mettiamoci anche che questo caos emotivo che viviamo tutti per la pandemia e per le tante altre preoccupazioni forse non ci fanno vivere con tutta la serenità appunto questo cambiamento, ma ci arriveremo con calma. Grazie ad Alessandro Zollo per essere stato con noi. Direi, Mauro, di partire con la nostra trasmissione. Oggi ci siamo presi un pochino a parte questo dato di cronaca che stamattina necessariamente dovevamo affrontare, una piccola giornata di pausa dai nostri tradizionali argomenti, nel senso che li affrontiamo da un punto di vista diverso. Oggi, per l'8 dicembre, abbiamo scelto di offrire ai nostri ascoltatori alcuni interessanti consigli di lettura. Tra l'altro, Mauro, scusami, come primo consiglio di lettura intanto possiamo suggerire quello che ci sarà domani sul Sole 24 Ore. Hai perfettamente ragione, perché domani insieme al Sole 24 Ore ci sarà una guida al condominio. Diciamo, periodicamente produciamo questi instant book, insomma questi fascicoli, queste guide di decine e decine di pagine in cui illustriamo, riepiloghiamo le cose che si possono fare. Quest'anno perché è particolarmente importante? Perché c'è il 110%, e allora in condominio il super bonus è un tema caldissimo, non dico come il cashback, però insomma quasi. Allora vi ricordo, domani con il Sole 24 una guida al condominio con ampie parti dedicate proprio al super bonus del 110%. Tutto ciò premesso, può introdurre il nostro primo autore? Molto volentieri. Il primo libro che suggeriamo ai nostri ascoltatori è I soldi danno la felicità, corso semiserio di sopravvivenza finanziaria, scritto da Ugo Biggeri con la collaborazione di Cristina Diana Bargu. Ugo Biggeri lo conosciamo molto bene perché è stato molto frequentemente nostro ospite, è già stato presidente di Banca Etica, oggi è presidente di Etica SGR, che è la società di gestione del risparmio appunto di Banca Etica, e quindi ci racconta esattamente che cosa intende con questo concetto, perché qui non si tratta di mettere un punto interrogativo, il titolo è già un'affermazione, detto dal mondo della finanza etica ci ha incuriosito appunto particolarmente. Biggeri, buongiorno e benvenuto. Salve a tutte e tutte. Sì, è un po' una provocazione il titolo, perché è un modo di dire che abbiamo sui soldi. È ovvio che pensiamo che non sia vero, e ci sono dei buoni motivi per non pensarlo, però serve a pensare sui soldi. Diciamo anche che il tempo è denaro, ma non esiste un contatore che al passare del tempo mette i soldi sul nostro conto corrente, quindi è un'occasione per parlare intorno ai soldi e anche per capire cosa si può fare di buono con i soldi. Tra le prime pagine del libro, lei, no, Mauro, guarda, volevo solo con curiosità chiedergli questo aspetto. Lui dice: come ogni strumento, i soldi non sono né buoni né cattivi, ma non sono neanche neutrali. Tutto dipende da come a livello individuale e collettivo decidiamo di guadagnarli, spenderli, risparmiarli ed investirli. E qua traccia già anche uno spaccato interessante fra gli italiani, perché noi sappiamo molto bene che sono dei grandi risparmiatori, ma non sono dei buoni investitori, Biggeri. E forse questo lo sapete anche voi di Etica SGR. Ma sì, è vero, perché abbiamo per fortuna una propensione al risparmio, che è una cosa assolutamente sana, diciamo, non soltanto per le persone ma anche per il paese, però poi lo vediamo anche tutte le volte che ci sono stati gli scandali finanziari, abbiamo scoperto che un sacco di persone, magari pure ingannate, però hanno messo tutto quello che avevano in un unico prodotto finanziario, ed è proprio la prima regola dell'ABC, ma non c'è bisogno di aver studiato finanza, è una regola di buon senso di non mettere tutto quello che uno ha in un unico strumento finanziario. Quindi poi vediamo che in realtà l'analfabetizzazione finanziaria è molto diffusa. Allora l'idea del libro è di avere un tono molto leggero, molto scherzoso, e in modo che anche le persone che hanno un po' paura dei termini tecnici, ma anche solo della parola finanza, possano capire cos'è un conto corrente, come funziona, cos'è un titolo di massa e quindi un titolo di investimento, e magari capire anche che cosa c'è dietro, al di là dei tecnicismi, nel senso che lo sappiamo benissimo, con gli investimenti possiamo finanziare il petrolio o le energie rinnovabili, le imprese che salvaguardano i diritti dei lavoratori o quelle che invece delocalizzano. Quindi invito a farsi delle domande, ecco. E tra l'altro ci sono delle domande anche che vengono rivolte ai lettori, perché c'è una specie di quiz finale, giusto? Con domande di livello diverso per autoverificarsi, insomma, una specie di compito per vedere se uno ha capito, ha compreso bene i passaggi del libro. È un po' un gioco, perché appunto l'idea è di rendere piacevole farsi domande intorno ai soldi. Quindi un po' si giocano su alcune ambiguità, perché non so, investimento per noi a Radio 24 è chiaro di cosa stiamo parlando, ma potrebbe investire una persona, oppure investiti, mettersi dei vestiti, e quindi si gioca anche un pochino su queste ambiguità, ma l'idea del quiz di nuovo è per dare un po' di leggerezza e aiutare a farsi delle domande sulla finanza e sull'economia senza avere paura, perché quello che vediamo anche nell'esperienza fatta con Banca Etica, con Etica SGR in tanti anni, è che le persone hanno oggettivamente difficoltà a capire bene che cosa sia un investimento, che cosa c'è dietro, quali rischi corrono. Sono purtroppo abituate a guardare ad esempio soltanto al rendimento, la prima domanda che ti fanno è sempre quanto mi rende e non quanto rischio, mentre invece a logica dovrebbe essere la seconda che viene prima. Guardi, ci ha già anticipato peraltro un tema che affronteremo con uno dei prossimi ospiti, sempre di questa trasmissione questa mattina, appunto in occasione della presentazione di un altro libro. Posso chiederle, Biggeri, che cosa ne pensa lei dell'operazione dalla quale siamo partiti, il cashback, tutto questo tentativo di digitalizzare il nostro paese anche per quello che riguarda le abitudini di pagamento degli italiani? Servono operazioni così massive per dare un impulso importante ad un determinato cambiamento che in Italia in realtà ancora manifesta profonde resistenze da parte della collettività? Allora, io troviamo questa cosa positiva, siamo stati tra i primi investitori anche in un sistema di pagamento che è molto in voga oggi, e riteniamo che sia fondamentale, anche perché in realtà esiste una sorta di digital divide, una sorta di ritardo digitale, barriera alle persone ad utilizzare questi strumenti, e evidentemente bisogna anche capire che c'è anche la preoccupazione, in questo caso mi sembra giusto che uno abbia queste preoccupazioni, che anche se sono in buona parte infondate, che funzionino, che non ci siano problemi di sicurezza eccetera, però in realtà semplifica la vita a tutti quanti, e se gestito bene i pagamenti elettronici in realtà possono essere anche una sicurezza per le persone, o meglio un modo di inclusione finanziaria delle persone che oggi invece li usano molto, molto poco. Alla fine se si usano correttamente si ha immediatamente la contabilità di quello che si sta facendo, e non è una cosa da poco, quindi sì, mi sembra positivo che vengano incentivati. Grazie a Ugo Biggeri, presidente di Etica SGR, ma soprattutto questa mattina qui a Due di Denari, ospite per essere l'autore di I soldi danno la felicità, corso semiserio di sopravvivenza familiare o finanziaria o familiare. Finanziaria. Corso semiserio di sopravvivenza finanziaria. Chiedo scusa e passo la parola a Deborah per le borse. Io ci rinuncio. Di denari. Open phones if you want to talk about your life and your money. We know we do. 888-825-5225. That's 888-825. Attenzione Mauro, perché abbiamo dei fior di concorrenti negli Stati Uniti. Lo so. Teniamoci stretta a Due di denari. Beh, ma guarda che anche loro ci temono, io lo so, lo so perché lo stesso Dave Ramsey, che è una delle voci più autorevoli sulla finanza personale, sul business negli Stati Uniti, so che ci teme. Secondo me lui ascolta Due di denari, Two of Coins, secondo me lui lo sente. Ma adesso potremmo chiedere a chi per appunto l'ultimo libro di Dave Ramsey si occupa qui in Italia della diffusione della collana che viene fatta per i libri di finanza da Alise Editore. Si tratta del dottor Arcangelo Caiazzo. Diamo il benvenuto a Due di Denari, soprattutto. Buongiorno. Salve, salve a voi. Allora, è un piacere essere qui con voi. Grazie, grazie. Allora, Alise si presenta in Alise Editore si presenta in libreria con questo Cambiare vita per raggiungere la libertà finanziaria, che è un bestseller di Dave Ramsey, appunto questo possiamo dire forse guru, insomma questa voce molto autorevole, molto ascoltata negli Stati Uniti in materia di finanza personale e di affari. Autore, leggo qui dagli appunti che sono stati preparati dall'ottimo Marco Lombardo, come sempre, quest'oggi coadiuvato dall'altrettanto ottimo Giorgio De Luca, leggo che Dave Ramsey è autore di, beato lui, 4 bestseller del New York Times, tra cui appunto vabbè pace. Ma noi ne abbiamo fatti 2 per il Sole 24 Ore, non ci possiamo mica lamentare, dai. Guarda, allora il collega, facciamoci spiegare dal dottor Caiazzo, dal dottor Arcangelo Caiazzo, che cosa ha scritto il nostro collega Ramsey, mettiamola così, dai, diamoci delle arie. Buongiorno dottor Caiazzo, ci racconti questo libro. Vi faccio una mini presentazione su Dave Ramsey, è una delle voci più autorevoli in America proprio sul tema della finanza personale e la gestione dei soldi. Noi del gruppo Alise Editore abbiamo deciso di pubblicare questo libro proprio per il periodo storico che stiamo vivendo, ovviamente un periodo difficile per tutti, e questo libro, che ha venduto oltre 5 milioni di copie nel mondo, ha aiutato tantissime persone proprio a iniziare a gestire i propri soldi e ad uscire dalla morsa dei debiti, e questo li ha aiutati ad avviarsi verso il cammino dell'indipendenza finanziaria, ed è il motivo per cui abbiamo deciso di tradurre questo titolo con Libertà finanziaria. In questo libro, dopodiché ci faremo dare anche dei suggerimenti per vendere, certo, 5 milioni di libri, caro Mauro, nel mondo, perché ci sembra che forse, ecco, il suggerimento più importante che potrà darci Ramsey sarà questo. Prego Caiazzo, io sto scherzando naturalmente, però è molto interessante l'approccio che questo autore utilizza, perché diciamo che in realtà lei ha fatto anche un cenno ad un tema importante, che è quello dell'indebitamento, che è la grave piaga che riguarda appunto molti americani che si indebitano già da quando vanno a scuola e iniziano, come dire, a sottoscrivere i primi finanziamenti per potersi permettere l'università, quindi è un tema molto rilevante per gli Stati Uniti. Caiazzo. Sì, ovviamente per i consumatori americani questo è un tema molto importante, perché i debiti sono una piaga importante proprio per gli americani. Ma la cosa interessante non sono soltanto le 5 milioni di vendite, ma il numero delle persone che Dave Ramsey ha aiutato per iniziare a gestire i propri soldi. E in questo libro la cosa figa, secondo me, è proprio il fatto che all'interno di questo libro ci siano delle testimonianze, e questo è ovviamente, sotto il punto di vista umano e emotivo, una cosa bellissima, perché vediamo come grazie a questi steps, che lui chiama i baby steps, sono 7 piccoli passi verso la libertà finanziaria, le persone siano riuscite a costruire la propria ricchezza, ma ad avere anche una crescita personale. Quindi questo libro non è per le persone già acculturate in materia, ma proprio per i neofiti. È un libro scritto in maniera molto semplice che può aiutare anche noi italiani a gestire le nostre finanze. Questi 7 baby steps sono veramente semplicissimi e hanno aiutato appunto gli americani, ma anche il pubblico italiano sta iniziando ad apprezzare questi 7 baby steps. E Dave Ramsey all'interno di questo libro racconta le storie delle persone che sono riuscite a migliorarsi grazie a questo approccio semplicissimo chiamato appunto i baby steps. La sua storia è la storia di tutti noi, un uomo che ha cercato di costruirsi da solo, ha iniziato a lavorare molto giovane e all'età di 30 anni, lui era un imprenditore immobiliare, si è ritrovato senza soldi, fallito, pieno di debiti, con una società che era andata sul lastrico. Quindi lui ha iniziato c'è a studiare. Tra l'altro, mi scusi se la interrompo, che adesso c'è anche un'altra storia americana molto interessante, simile a quella di Ramsey, che è quella di Suze Orman, che è una giornalista americana che si occupa anche lei di finanza personale, conduttrice di trasmissioni di successo, ma ha la stessa identica storia personale. La sua esperienza parte proprio da una storia di un fallimento economico, appunto all'inizio della sua vita, anche una storia personale molto molto problematica e triste, dopodiché appunto si ritrova naturalmente a rimettersi in sesto dal punto di vista economico, di conseguenza dalla sua storia diventa anche una testimonial naturalmente utile alla collettività appunto statunitense. Ecco, tra l'altro, quello che stavamo dicendo, Caiazzo, è anche un po' questo approccio che ha Ramsey di avvicinarsi a chi non sa di economia, non sa di finanza, e a un certo punto nel libro dice: sono sicuro che la finanza personale sia all'80% azione e solo il 20% conoscenza razionale. Quindi è un po' una specie di esortazione: prima a conoscere se stessi, il proprio rapporto con il denaro, e poi eventualmente a fare un passaggio per comprendere di più alcuni meccanismi, prodotti, strumenti finanziari che esistono. Mi pare sia questo anche un po' un insegnamento fondamentale del libro di Ramsey. Sì, e soprattutto l'approccio pratico. Secondo noi del gruppo Alice Editore, ma anche la morale di questo libro, è che non c'è crescita finanziaria senza una crescita personale. Quindi dobbiamo lavorare molto su noi stessi, sul nostro approccio all'economia, alla finanza, e non vivere i soldi come un tabù. Allora, vi ricordo, questo volume si chiama Cambiare vita per raggiungere la libertà finanziaria. L'autore è Dave Ramsey. Dave Ramsey, come vi abbiamo detto, è una voce tra le più autorevoli in America, ha venduto 5 milioni di copie, autore di bestseller, appunto sempre sulla materia utilizzo corretto del proprio denaro, impostazione corretta della propria vita economica prima che finanziaria. Insomma, risparmiatori e investitori, è un libro che ci può offrire spunti in questo senso. Ce ne ha parlato Arcangelo Caiazzo, che è responsabile per la collana dei libri di finanza di Alice Editore. Grazie molto, dottor Caiazzo. Grazie a voi. E noi adesso un minutino di anticipo, perché no, Pietro? Andiamo con il traffico. C'è troppa confusione in giro. Due di denari. Una monetina a te, una te, una monetina pure a te. Così fanno tre, una monetina per questa serata che non può finire. Una per trovarti, l'altra per sparire. Non fan pagare la commissione per le transazioni inferiori a 5 euro. 5, ma quante sono le transazioni inferiori a 5 euro? Certo che questi qui del bancomat si stanno sprecando, Buongiorno, sono una tassista. Volevo sapere se i miei clienti pagando con il POS avranno il cashback. Grazie, buona giornata. Si alzerà notevolmente il numero di clientela che pagherà con carte bancomat e carte di credito, quindi moneta elettronica, ma per noi esercenti, che quindi comunque saremo costretti e obbligati ad accettare questi tipi di pagamenti, non si sta dicendo da nessuna parte che le commissioni bancarie che saremo costretti a pagare non saranno per niente eliminate, e quindi ci troveremo un grosso fardello di commissioni da pagare rispetto a prima che si pagava col contante. Grazie. Siamo in Italia, con questo non vuol dire che non abbia fiducia nel sistema Italia, però immettere il mio codice IBAN in rete su un'applicazione, ma per l'amor di Dio, ma non esiste proprio. Già ne ho pochi di soldi, mi devo far rubare anche quelli, ma no. Diciamo così che c'è un po' di diffidenza in giro, per non solo per in generale le questioni finanziarie, ma anche per questa operazione del cashback. Allora, continueremo naturalmente a monitorarlo. Grazie, ci state continuando anche a scrivere raccontandoci le vostre esperienze positive e negative. Abbiamo un ultimo autore con noi, e allora anche a lui chiederemo un commento su questo. Benvenuto a Giuseppe Clozza, che è autore di Bassa Finanza, quindi già cominciamo con il gioco di parole, quindi non è alta finanza ma bassa finanza. Perché bassa finanza, Clozza? Benvenuto a Due di Denari. Buongiorno a tutti. Bassa finanza è anche il nome del mio sito internet, bassafinanza.com. Perché bassa finanza? Perché non ho mai sopportato i libri noiosi scritti in modo incomprensibile dell'alta finanza, e perché penso che l'alta finanza abbia fatto già un po' di danni in giro, e che quindi invece noi abbiamo bisogno di una finanza più bassa, cioè un pochino più a livello nostro di persone comuni, e quindi cerco di spiegare le cose in modo semplice, in modo ironico anche in modo che sia comprensibile da tutti. Questo è un po' il motivo del titolo. Deborah, prego. Allora, ci sono? Posso? Sì, mi sentite bene adesso stamattina? Questa mattina la tecnologia non ci sta aiutando, forse perché... No, no, da molti punti di vista, esatto. Lascia stare la app io, poi fare le registrazioni. Potrebbe darsi che entra in conflitto anche con il nostro sistema di collegamento. Prego. No, io volevo farti conoscere meglio Giuseppe Closa, perché è un profilo molto interessante. Giuseppe non è un collega giornalista, non è uno scrittore, ma è un consulente finanziario, e lui in questo libro racconta anche la sua personale esperienza di come ha approcciato a questo mestiere e qual è anche la sua relazione in questo momento con i suoi clienti. È un aspetto peraltro che vorremmo provare ad affrontare questa mattina, in cui è molto difficile effettivamente dare suggerimenti di investimento in un mondo che è particolarmente complicato. Lui è un ex bancario e ad un certo punto ha scelto però di fare un altro mestiere, perché effettivamente in banca si sentiva un po' messo alle strette, sotto pressione per, come è noto Mauro, noi lo raccontiamo a Plus 24 come mal di budget, e quindi ha deciso di come dire, mantenere questa stessa professione, facendola però in un modo diverso. Ma anche quando ha iniziato a fare il consulente finanziario, all'inizio era promotore finanziario, stavo leggendo proprio questa parte questa mattina dal libro, Giuseppe, anche lì l'inizio è stato tutt'altro che facile, perché anche lì le pressioni erano. Quindi quando faceva i corsi di formazione nessuno gli insegnava come funzionano i mercati finanziari, come funzionano le soluzioni di investimento, ma i corsi di formazione riguardavano soprattutto le tecniche di vendita. Qual è questa storia, Giuseppe? Ma, diciamo che stiamo parlando di un'epoca di alcuni anni fa, quando più che altro i cosiddetti promotori finanziari, prima che poi venissero chiamati consulenti finanziari, erano molto spesso erano dei venditori, diciamo così, o meglio, questo era ciò che le società cercavano più che altro delle persone abili a vendere, e non era particolarmente richiesto il fatto di conoscere l'ABC, diciamo così, degli investimenti. Infatti quello che descrivo lì nel libro, credo in modo abbastanza divertente, è il corso di formazione alle tecniche di vendita, che poi io chiamo il corso di deformazione, diciamo, il corso di deformazione professionale, che insegnavano come superare le obiezioni dei clienti per appiopparli il prodotto più costoso, dove naturalmente si guadagnava più. Come spiega lei questa, che ci tormenta spesso, liquidità molto elevata sui conti correnti, questa ritrosia a investire da parte degli italiani? Lei come se la spiega? E Bassa Finanza, il suo libro, si occupa anche di questo aspetto, cioè di un superamento magari di questa diffidenza? Assolutamente sì, se ne occupa perché diciamo l'eccesso di liquidità è un po' una caratteristica tipica, non strana, è già stato detto dagli ospiti precedenti, insomma, che gli italiani sono degli ottimi risparmiatori, ma poi quando si va ad investire è un pochino più complicato. In particolare penso in un periodo come questo, dove mi pare Deborah abbia parlato di caos emotivo, no? di un periodo senza serenità a causa del Covid. Apro parentesi, è appena uscito un altro mio libro che si intitola My Covid, chiudo parentesi. Perché se l'ha beccato anche lei, Giuseppe, sì, esatto. In modo non, diciamo, non irrilevante, per usare un eufemismo, sì. Giusto? Sì, sono reduce sì, da una lunga degenza in ospedale, dove ho deciso di scrivere un libro, tanto per tenermi allenato. È un libro che appunto si intitola My Covid, è appena uscito e cerca di dare un messaggio proprio in direzione di quello che diceva Deborah prima, cioè di fare ordine in questo caos emotivo e di dare invece serenità e una visione del futuro molto molto più luminosa e speranzosa di quella che invece abbiamo con questo cupa in cui ci troviamo in questo periodo. Chiudo la parentesi sul My Covid, torno sul discorso dei soldi sul conto corrente. Bassa Finanza se ne occupa perché secondo me le motivazioni principali sono due. Prima di tutto ci sono sempre delle informazioni complicate o che vengono rese in modo complicato, per cui molti risparmiatori sono un po' confusi sul come investire. E questo è un po' anche l'obiettivo di Bassa alleggerendo e dando anche dell'ironia, renderle anche fruibili, divertenti. Ci sono dei personaggi, il libro è romanzato, c'è una trama, insomma c'è tutto questo. L'altro motivo, secondo me, è che molto spesso non sappiamo di chi ci possiamo fidare, cioè non abbiamo una persona di riferimento alla quale rivolgersi, o se ce l'abbiamo non sappiamo bene se è la persona giusta. C'è un proverbio che dice: se vi sentite a disagio con il vostro consulente, probabilmente c'è una buona ragione. E quindi questo è un po' una cosa. Parlando di consulenti, è anche vero, c'è un altro proverbio che dice: per avere successo un consulente deve dire alla gente ciò che vuole sentirsi dire. Quindi bisogna stare un po' attenti a questo. Diciamo che se uno guarda le cose in quest'ottica, c'è sempre un buon motivo per non investire, se uno le vede così le cose, e quindi se ne sta un po' nel bunker aspettando che o la tempesta arrivi o la tempesta passi, e alla fine non investe mai. Forse anche perché magari in passato ha seguito l'investimento in base alle previsioni, come si fa con l'oroscopo, no? Cioè si fa l'oroscopo di borsa, purtroppo seguendo i consigli dei guru, purtroppo, altro proverbio dice, prima che un guru rimanga a corto di previsioni, tu sarai già a corto di soldi. E quindi tutto questo combinato fa sì che la gente magari tiene i soldi sul conto corrente e perde un sacco di opportunità, oltre al fatto di perdere, come sappiamo, il potere di acquisto. Però si può sempre crescere, esatto. Lo ricordo per concludere, Giuseppe Closa, Bassa Finanza, come difendere i propri risparmi e scoprire di chi fidarsi, perché lo si può fare naturalmente crescendo anche come persone consapevoli dell'importanza di gestire correttamente il proprio denaro, manuale di autodifesa del risparmiatore. Ci aggiungerei un altro paio di libri, Mauro, prima di salutarci, anche magari a Natale qualcuno vorrà anche avere la grazia, così il piacere di regalarli. Ne hai un paio da segnalare a caso? Io segnalerei sicuramente di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Investire è facile, sì, anche nei momenti difficili. Vedo già Pietro Lacorte che se lo vuole assicurare, lo trovate anche, sì, sugli store digitali. E ricordo partendo invece, anche magari da Risparmiare è facile se sai come fare. Certo, perché che è stata era la nostra fatica di letteraria fa. Di un dall'ABC. Anno fa. Esatto, allora ricordo Giuseppe Closa, autore di Bassa Finanza, abbiamo parlato anche di altri libri, di Ugo Biggeri, I soldi danno la felicità, e di Dave Ramsey, Cambiare vita per raggiungere la libertà finanziaria. Insomma, c'è da leggere e da imparare. Grazie a tutti e buona giornata. A domani.